faccia, ra ra pa pa pa pa, ti rappo su una traccia, ti distruggo la faccia, rappo rappa lui, tiro due dadi, tre dadi, quattro maghi, mi segui parole come se a caso vagassi nella nebbia per sempre, traghi parole dei cani, parole di Iraka. Vibra, figa, dentro carta moschicida, la mia rima ammira, rimira, dentro Dario Argento una dama che trama, tessuti di lama, filosofia di un sacco di botte prese e date, ricevute e dovute, al di là e al di qua di una, Smith & Wesson, qua Smith & Wesson, Smith & Wesson, faccia, ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ti rappo su una traccia, ti distruggo la faccia, rappo rappa lui, tiro due dadi, tre dadi, quattro maghi, segui parole come se a caso vagassi nella nebbia per sempre, nei miei traghi di parole, ricami di tele di Oniraka.